8:48 minuti, nuovamente in diretta con il Breakfast Club letterario magico del mercoledì, e quindi cominciamo con un incipit letterario, poi una piccolissima pillola di presentazione per il concerto di domani al Torrione. Intanto, per quanto riguarda l'incipit di oggi, un autore di grande attualità riportato nell'incipit curato dalla Sissa, Silvia Pioggia. Quindi addentriamoci in queste prime 20 righe per la puntata odierna. A tra poco. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione, quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E allora, perché non farlo con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume, dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che ho trovato nel mio girovagare per la città e scopriremo se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Buona la prima! Questi sono i primi paragrafi di Il figlio del secolo di Antonio Scurati. Affacciamo sulla piazza del Santo Sepolcro. 100 persone, scarse, tutti uomini che non contano niente. Siamo pochi e siamo morti. Aspettano che io parli, ma io non ho nulla da dire. La scena è vuota. Alluvionata da 11 milioni di cadaveri, una marea di corpi, ridotti a poltiglia, liquefatti, montata dalle trincee del Carso, dell'Ortigara, dell'Isonzo, i nostri eroi sono già stati uccisi, o lo saranno. Li amiamo fino all'ultimo, senza distinzioni, sediamo sul mucchio sacro dei morti. Il realismo che segue ogni alluvione mi ha aperto gli occhi. L'Europa è ormai un palcoscenico senza personaggi. Tutti spariti, gli uomini con la barba, i padri monumentali melodrammatici, i magnanimi liberali piagnucolosi, gli oratori magniloquenti, colti e fioriti, i moderati e il loro buonsenso, cui da sempre dobbiamo la nostra sciagura, i politici decotti che vivono nel panico del crollo imminente, elemosinando ogni giorno una proroga all'inevitabile evento. Per tutti loro la campana è suonata. Gli uomini vecchi saranno travolti da questa massa enorme. 5 milioni di combattenti premono ai confini territoriali. 5 milioni ritornanti. Bisogna mettersi al passo, passo serrato. La previsione non cambia, farà brutto ancora. All'ordine del giorno è ancora la guerra. Il mondo va verso 2 grandi partiti. Quelli che ci sono stati e quelli che non ci sono stati. Questo libro ha vinto il premio Strega, ovviamente. Credo che fosse quando la giuria ancora leggeva i libri prima di votarli, quindi vorrei provarla questa esperienza. Come on, my readers! Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Grazie Silvia, riprendiamo quindi gli incipit del mercoledì per questi, direi, ultimi tre mesi di stagione 2023-2024. Arriva M, il figlio del secolo, è un romanzo storico scritto da Antonio Scurati, narra l'ascesa al potere di Benito Mussolini e con questo romanzo Scurati ha vinto il premio Strega, come ha ribadito anche Silvia, nel 2019. Ha dedicato la vittoria a chi ha combattuto contro il fascismo. Il Last Minute invece ci porta a un Jazz Live, il Jazz Live che anticipa il concerto di domani, giovedì 25 aprile, al Torrione. Sarà un weekend ricco. Per la giornata di venerdì invece Jazz Live riporterà il venerdì, sabato e domenica sempre nella prestigiosa sede Estense. Io ho voluto rimettere la sigla anche del Jazz Live, così questi minuti di Last Minute li riportiamo all'interno della programmazione del Jazz Club Estense. Eccoci qua, Last Minute Jazz Live con un trio per domani giovedì 25 aprile, il Torrione aperto, Goldings, Bernstein e Stewart. Per la precisione Larry Goldings all'organo, Peter Bernstein alla chitarra, Bill Stewart alla batteria. Presenze che già abbiamo conosciuto, ad esempio vicino a Pat Metheny, con alle spalle tournée e registrazioni, l'ultima delle quali Perpetual Pendulum, che ne celebra i 30 anni di attività. Questo sodalizio musicale incarna quanto di meglio il classico organ trio può offrire in termini di groove, ricchezza sonora e un bellissimo interplay. Ogni loro concerto definisce ciò che significa suonare jazz con originalità, ripercorrendo il solco della tradizione. A proposito di tradizione, Putting on the Ritz, il brano che ho selezionato, che ci accompagnerà alla pubblicità. Quindi ricordo domani Jazz Club Ferrara, giovedì 25 aprile, Goldings, Bernstein, Stewart e Jazz Live, che ci sarà puntualmente invece per presentare gli appuntamenti del weekend il venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Intanto Putting on the Ritz, Goldings, Bernstein and Stewart. Un buon ascolto, a tra poco dopo la pubblicità con il Voltiamo Pagina. We'll be right back.